Nel Vangelo di oggi, Matteo capitolo 4, versetto 18 seguenti, c'è la chiamata che Gesù rivolge ad Andrea, che celebriamo oggi, 30 novembre, e suo fratello Pietro, e anche a Giovanni e Giacomo, figli di Zebedeo. Io volevo fermarmi un istante a riflettere su questo fatto, che sono chiamate due coppie di fratelli, fratelli di sangue, voglio dire. Per chiedere al Signore la grazia che questo avvenga anche nelle nostre famiglie. I frati religiosi si chiamano così perché sono fratelli nella fede. Le suore, perché sono sorelle nella fede. Ma provate a pensare che bello se un fratello, una sorella, due fratelli, due sorelle di sangue avessero anche la stessa fede. Sarebbe una meraviglia. Non è così frequente che questo capiti. È capitato qui nel Vangelo, è capitato nella vita di Sant'Ambrogio, addirittura sono stati tre fratelli santi, Sant'Ambrogio, suo fratello Satiro e sua sorella Marcellina. E ci sono delle pagine stupende in cui Ambrogio descrive, per esempio, al funerale di suo fratello, oppure scrive un bel libro sulla verginità a sua sorella Marcellina. A quel tempo non c'erano le suore con l'abito da suora, si viveva in casa, consacrate in casa. Non sono frequentissimi questi, ma ci sono. E provate a pensare se fosse anche marito e moglie che, oltre ad amarsi umanamente da innamorati, amassero da santi lo stesso Dio, il papà e la mamma di Santa Teresa di Gesù Bambino. E poi a dover scavare, credo che ce ne sarebbero degli altri. Mi viene in mente, così improvvisando, San Benedetto e Santa Scolastica. C'è un testo straordinario, forse lo conoscete o forse no. Scolastica va a trovare suo fratello Benedetto, che è in convento, e lui esce dal convento, li incontra in foresteria, che è al confine tra il convento e l'esterno, perché le donne non potevano essere ammesse in convento. E dice il racconto che stettero tutto il giorno parlando di cose di Dio. Arrivata verso sera, Benedetto dice: sorella, ti devo salutare perché devo rientrare, ma stiamo ancora un po' insieme, stiamo insieme anche questa notte a parlare delle cose di Dio. Che bello, eh? Perché quando si è veramente fratelli nell'anima, il tempo vola. Io l'ho sperimentato nella mia vita, spero che voi l'abbiate sperimentato. Anche se non si è fratelli e sorelle di sangue, quanto più se lo si è. Io ho avuto anche la fortuna di avere con mio fratello alcuni momenti veramente bellissimi da segnare a caratteri d'oro. Bene, Scolastica dice a suo fratello: ma stiamo insieme a parlare delle cose di Dio, non è possibile, devo rientrare. Allora Scolastica mette giù la testa sul tavolo, si raccoglie in preghiera. Come alza la testa, scoppia un temporale di quelli da... E allora lei dice: vai adesso se hai voglia. Benedetto dice: ma sorella mia, ma cosa hai combinato? Ti sei messa a chiedere al Signore un temporale così grave? Ma hai tentato il Signore? E lei candidamente dice: ho chiesto a te di stare un po' di tempo insieme a parlare delle cose di Dio e tu non mi hai ascoltato. l'ho chiesto al mio sposo celeste e lui mi ha ascoltato. Allora il racconto conclude, e allora ciò che non era disposto a dare umanamente, Benedetto, fu chiamato dalle condizioni permesse da Dio a donarlo a sua sorella spiritualmente. Vi faccio questo augurio, cari amici, che anche tra marito e moglie, tra di voi, o magari tra fratelli e sorelle di sangue, o perché no, anche tra genitori e figli, è una grazia eccelsa che il Signore potrebbe dare questa, no? Che il Signore ci dia la grazia di amarci da fratelli di sangue e da amarci da fratelli di anima. Doppio regalo.